Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Il giardinaggio di successo non è necessariamente una questione di denaro. È una questione di amore, gusto e conoscenza. Vita Sackville West. Buona domenica di Pasqua anche da parte mia, bentrovati nel giardino di Radio 24. Oggi sono in arrivo regali per gli aspiranti pollici verdi che ascoltano il giardino segreto e non solo in forma di suggerimenti. Certo, ci saranno anche quelli, preziosi in particolare per chi non ha risorse economiche e molto tempo per star dietro le sue piante. Consigli che arriveranno da chi fin da bambino le coltiva e le cura con una passione tale da essere diventato un divulgatore. Si chiama Claudio Baldazzi, lavora attraverso iniziative verdi con le persone disabili, collabora con diverse testate e scrive, insieme a validi giardinieri appassionati ma non professionisti come lui, libri. L'ultimo si intitola Il giardino pigro, esperienze, idee e suggerimenti per faticare meno e godersi di più il giardino, Blu Edizioni. Curato da Laura Caratti, è un libro corale in cui chi un giardino l'ha già creato partendo da zero spiega agli altri come si fa, compresi i giardini di vasi sui terrazzi. Il tutto accompagnato da moltissime belle fotografie per cui ogni pianta citata, anche la più astrusa, la vedremo immortalata potendo così associare i nomi scientifici a foglie e fioriture. Tra questi giardini privati presentati c'è quello appunto di Claudio Baldazzi, in cui stiamo per entrare, che si trova a Moglia, in provincia di Mantova, ampio più di 300 metri. Ben trovato Claudio al giardino segreto. Roberta, ben trovata e grazie della telefonata. Innanzitutto buona domenica e buona Pasqua. Claudio Baldazzi, noi avremmo dovuto incontrarci in studio a Radio 24, mi ricordo anche l'appuntamento, era per il 19 marzo. Poi però non si è potuto fare. Stiamo rimediando, per fortuna, lo si può fare con una telefonata, però la cosa bella è che lei ci sta parlando direttamente dal suo giardino, quindi in diretta può raccontarci le fioriture che stanno arricchendo questa Pasqua così particolare, così strana. Sì, certamente. Beh, diciamo che il lato positivo di tutta questa situazione di disagio è che comunque, standomene a casa, io sono una persona fortunata che, dedicando quando posso più tempo possibile alla mia grande passione che è il giardinaggio, posso godermi tutte le mie fioriture, le piante che stanno andando il meglio e tutti i lavori che riesco in questo momento a seguire più minuziosamente, che altrimenti delle volte vado un po' di corsa e certe cose mi capita di tralasciare. Adesso, essendo aprile, sui 18-20 gradi, sta germogliando di tutto. Cosa la sta sorprendendo in particolare nel suo giardino in questa domenica di aprile? Ma stavo guardando giusto qua che sono sul fronte strada, Iphaeon uniflorum è una bulbosa che ne pianti pochi bulbi ed è una di quelle bulbose simpatiche, furbe, che riescono a naturalizzarsi e si ripresenta sempre più abbondante negli anni. Fa questa stella del diametro di 4 cm, diciamo, di un bel azzurro lavanda brillante e anche profumata, e stavo buttando l'occhio, è particolarmente carina. Iphaeon uniflorum, Iphaeon con l'H si scrive, il fiore stellato che sta regalando molto, mi pare di capire. Sì, sta dando una buona fioritura, ma tra l'altro è qui naturalizzato perché ne avevo piantato dei bulbi quando avevo fatto il giardino, per cui 2005-2006, e a distanza di 15 anni continua a rifiorire abbondantemente, anzi tutti gli anni me ne ritrovo di più. Nel libro corale Il giardino pigro, lei racconta tra l'altro delle sue bordure fiorite in grado di dare grande soddisfazione senza richiedere né troppo tempo né troppo lavoro. Esatto, perché la bordura inglese, border mixed, quello perfezionato, ideato da Gertrude Jekyll, dava delle tecniche valide dove comunque le piante danno il meglio di loro stesse, perché vengono tutte distanziate con una certa regolarità calcolando gli ingombri medi. È vero che però il lato negativo è che lasciare poi sotto il terreno vuoto e libero il vento può portare dei semi e per cui possono crescere delle piante non desiderate, che possono essere delle piante selvatiche. Nel mio modo di concepire la bordura, visto che comunque coltivo piante e fiori da quando ero bambino, ho capito che comunque l'impianto molto fitto, o piantare quelle piantine furbe che si autodisseminano, che riescono a coprire completamente il terreno, si riesce ad avere una manutenzione più bassa, perché intanto non ti devi piegare per strappare l'erba, perché magari il terreno è stato riempito da altre cose che comunque nel corso dell'anno prima o poi arrivano sempre a fiorire. Quali sono queste piantine furbe? Le piantine furbe, io ad esempio ho dei Myosotis, E ho una vecchia varietà da giardino, fiore grande, Myosotis sylvatica e Royal Blue, che è un non ti scordar di me. Meraviglioso azzurro. Di un bellissimo azzurro. Io sono entusiasta, tra l'altro questa è una vecchia varietà a fiore grande di Myosotis sylvatica, una specie tipo sylvatica, quella autoctona, avrebbe un fiorellino piccolissimo. Questa da giardino si autodissemina molto facilmente. Io la lascio seccare completamente in piedi dopo che lei ha fiorito. Quando vado a fare un po' di pulizia strappo le piantine secche, come quando passo che tolgo i fiori sfioriti, perché quel minimo di manutenzione per mantenere tutto un po' in ordine la si fa lo stesso, stacco, scuoto velocemente e faccio in modo che i semi cadano a terra. Poi la natura fa tutto il suo ciclo. Come stesso modo può farmi la stessa cosa, ma fa tutto lei naturalmente, meravigliosa, è Viola Sororia. Viola Sororia, una erbacea perenne, una violetta, come la nostra viola mammola, viola odorata, che però fiorisce un mese dopo rispetto alla odorata, ha il fiore più grande e ne ho di meravigliose. Non so, la piceana, che è bianca con tutta la screziatura blu elettrico, la purpurescence, di un bel porpora brillante, e anche la frickless, bianca con tutti i puntini blu come fosse spruzzata o lentiginosa. Loro, dopo la fioritura, lei saprà sicuramente che è molto noto il dimorfismo delle viole, che la prima fioritura è un fiore sterile, che non produce semi. Poi nel corso della stagione la pianta mantiene le sue foglie, sotto fa una seconda fioritura non appariscente che forma poi i semi, che poi nel corso della stagione queste capsule sparano semi e lei riesce a produrre dei pratini compatti e loro restandomi sotto nella bordura, poi nel corso dell'estate le altre erbacee perenni la sovrasta, ma lei resta lì sotto e tutti gli anni si ripropone sempre più abbondantemente. Senza sforzi. Stiamo parlando di fiori e io voglio ricordare che le fotografie di queste fioriture le trovate nel libro Il Giardino Pigro, ma anche sui social di Claudio Baldazzi, e nel libro ci sono molti consigli per i giardinieri in erba che non hanno né molte risorse economiche né molto tempo per coltivare le loro piante, e questi consigli li daremo anche nel corso della trasmissione. Prima però vorrei che lei mi spiegasse che cosa significa in questo momento vivere la quarantena avendo un giardino, perché io immagino che i gusti immobiliari dei cittadini saranno cambiati al termine di questa emergenza e che sempre di più si preferirà una casa magari meno centrale, magari meno grande, ma con uno spazio verde o con un terrazzo, con un giardino, perché le piante fanno la differenza, le piante possono cambiarci la vita. Certo, le piante fanno grande compagnia, ma ti cambiano la vita, ma soprattutto perché secondo me l'uomo... L'uomo deriva dalla natura, l'uomo fa parte del genere animale, come le piante fanno parte del genere vegetale, e più l'uomo con la civilizzazione che va sempre più avanti tende a staccarsi sempre di più dalla natura, ma più l'uomo si stacca dalla natura, più lontano al suo mondo che sarebbe il suo mondo ancestrale, quello che è la terra, l'ambiente che gli ha creato la terra, cioè la natura, e più l'uomo è stressato. Avere la possibilità di avere un davanzale, un terrazzo, un balcone, un pezzo di terra, un piedaterra, una strisciolina dove puoi coltivare qualcosa, poi scegli tu, se non ti interessano i fiori puoi piantarti anche dei pomodori, però questo contatto con la terra ti riequilibria, ti fa ritornare un po' alle origini. A livello istintivo non te ne accorgi, ma ti fa star bene perché fa parte della nostra natura, e dopo tutto in questo momento drammatico le considerazioni che io sto facendo e che ci stiamo accorgendo tutti, che noi uomini non siamo onnipotenti, ma facendo parte della natura è la natura che comanda e fa quello che vuole. Ci avessero pensato prima gli urbanisti, faremmo una quarantena diversa, io credo. Faremo una quarantena diversa, perché effettivamente avere una strisciolina di terra che circonda la casa, nel momento che tu puoi fare anche solo una passeggiata intorno a casa, coltivarti qualsiasi cosa e prenderti una qualche soddisfazione, ma anche solo la soddisfazione di vedere un nido di merli che ha fatto il nido in mezzo a un cespuglio, un po' di vita, il ronzare delle api su una pianta che fiorisce. A proposito di animali, io ho visto sul libro che lei ha una casa completamente avvolta dal verde, ricoperta di rampicanti, come fosse un cottage inglese nel Mantovano. Infatti i bambini di moglie so che la chiamano la casa delle fate. C'è una vita americana, c'è dell'edera, e questo le ha portato solo benefici. Quindi non c'è il problema che le foglie attirino gli animali o che i muri possano rovinarsi. Per me sì. Beh, io cercavo innanzitutto una casetta bassa tutto al piano terra per fare un giardino tipo cottage garden, anche perché magari con una scala di 3,5 metri tu riesci a arrivare fino all'altezza da poter gestire queste piante rampicanti. Nord le pareti sono coperte di edera, invece su 2/3 della casa, dove batte più il sole, è coperta di vite americana. La vite americana, coprendo i muri, mi dà la possibilità d'estate di stare in casa fresco come se avessi l'aria condizionata, perché comunque il sole batte sulle foglie della vite e la vite mi ombreggia il muro. Il muro non si scalda e la casa resta dentro fresca. Ma diciamo che le piante rampicanti, avvolgendo le fondamenta e assorbendo l'umidità che naturalmente si accumula sotto la casa, mi toglie quell'umidità che, se non avessi niente, potrebbe risalire all'interno. A volte succede. E comunque una pianta rampicante anche d'inverno subisce la dispersione termica. Una pianta rampicante sempreverde come un'edera riduce la dispersione termica del 12-15%, una pianta foglia decidua come la vite americana, col suo intreccio di rametti lignei, legnosi, fa da isolante e riduce la dispersione termica dal 5-8%. Solo benefici con i rampicanti sui muri: meno caldo d'estate, meno umidità d'inverno, ma i muri possono rovinarsi. E la questione degli insetti? Allora, gli insetti volano ed entrano in casa che tu abbia o non abbia piante. Io comunque, dove abito io, ho le zanzariere. Con l'arrivo della zanzara tigre, avere le zanzariere penso che sia un modo per poter sopravvivere a questa calamità dovuta alla globalizzazione, lo sappiamo, e per cui questo problema non c'è. Diciamo che molta gente è reticente alle piante rampicanti per paura intanto delle lucertole che entrano in casa, però vi posso dire che la lucertola è un rettile a sangue freddo e come tale lei cerca i muri caldi assolati, per cui un muro che resta in ombra dalle foglie di un rampicante non è un muro dove vanno le lucertole. Le mie lucertole stanno sulla pavimentazione del cortile perché lì si scalda, ma non vanno sul muro, per cui l'effetto poi è contrario di quello che si possa pensare. Per quanto concerne quanto possa rovinare il muro, sì, se io decidessi di staccare tutta la mia vite americana o la mia edera, che già lei si è auto-abbarbicata, una con radichette aeree e la vite con i vitici muniti di ventose, logicamente rimarrebbe il segno sull'intonaco. Però, visto che io questo comunque non lo farò, il problema non c'è, ecco. E comunque anche le radichette aeree di una edera non è che sono radici che penetrano dentro la pietra e ti spaccano i mattoni. Lei si attacca sul primo strato, sul primo millimetro di intonaco. È logico che se la edera la stacchi dove lei era attaccata, si toglie quel piccolo strato di intonaco e lascia il segno, ecco. Però quando sono venuto a vivere qui, la casa aveva un colore che proprio non mi piaceva, e investire dei soldi per doverla comunque tutta ritinteggiare non era il caso, perché partivo con un mutuo. Io comunque mando molto il verde con una spesa irrisoria, anzi nulla, perché poi le piante me le moltiplico io per talea. Io ho piantato un ramettino, ho radicato e mi ha coperto la casa. L'unica manutenzione una volta all'anno, quando sono lì intorno fine novembre, primi di dicembre, con la scala faccio il giro, perché bisogna evitare che la vite prenda possesso delle grondaie e poi faccia il giro e cammini sopra le tegole. In questo caso potrebbe alzarmi le tegole e crearmi dei problemi. Do una giustatina, però 3 ore di lavoro per darmi una spuntatina tutta la vite, considerando tutto quello che risparmio di energia elettrica, non far andare un condizionatore, secondo me questo è il futuro, è il modo giusto per poter avere un risultato, cercando di vedere nella natura la nostra alleata che ci possa aiutare davanti a un problema come potrebbe essere quello del caldo estivo. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain. Ils remuèrent derrière en me disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Allora, il consiglio di Claudio Baldazzi è far salire rampicanti sui muri, quelli facili sono la vita americana e l'edera, sicuri che ci porteranno bellezza, benefici e anche risparmio. Altri suggerimenti per risparmiare tempo e denaro coltivando piante e anche avendo poco spazio arriveranno tra poco, insieme a un dono di Pasqua per chi ascolta il giardino segreto. Il giardino segreto. Il mio giardino è un'opera lenta perseguita con amore e non nascondo che ne vado fiero. Claude Monet. La lentezza, lo sappiamo, è un ritmo naturale e con le piante bisogna avere, se non denaro o troppo tempo a disposizione, sicuramente pazienza. La pazienza, ad esempio, che serve per aspettare che il nostro compost maturi, ottenendo così un concime del tutto naturale e a spese pari a zero. Chi crede che il compost lo possa avere solo chi ha molto spazio e mezzi sbaglia, perché Claudio Baldazzi, nel libro Il giardino pigro, spiega nel dettaglio come ottenerlo anche in ristretti spazi cittadini. È molto semplice, bastano foglie secche. Claudio. Le considerazioni del compost erano che comunque doveste avere un giardino molto grande e avere un angolo da organizzarti per produrre compost. Il compost tradizionale comporta un certo tipo di lavoro, ma si ha veramente un buon compost perché c'è tutto un lavoro che va seguito in un certo modo e puoi produrre con gli scarti della sfalciatura, la raccolta delle foglie del tuo giardino, un substrato che poi degradando nel terreno attiva la microflora e la microfauna e forma naturalmente humus. Questa è cosa sana e saggia sempre. Diciamo che uno può fare un compost un po' più grossolano, come faccio io, però di pratica soluzione. Io prendo dei sacchi neri robusti, in genere uso i sacchi di riciclo del terriccio normale delle piante da fiori, no? E questi sacchi qua di plastica, quando una giornata dove le foglie che sono a terra sono leggermente umide, non inzuppate dopo una pioggia, ma leggermente umide dopo magari una nottata nebbiosa, insomma, come succede in autunno o inizio inverno, raccolgo le mie foglie, le comprimo per bene dentro i sacchi e poi dopo li chiudo stretti stretti. E in questo modo le foglie, poi accatastandole dove volete, io me le porto in solaio perché è l'unico spazio dove posso accatastare sacchi pieni di foglie, o uno li può mettere nel capanno degli attrezzi dentro il garage, insomma, che non siano a vista nel giardino perché comunque sono sempre sacchi di plastica. In questo modo il compost si forma non per fermentazione aerobica come succederebbe con una compostiera normale che uno crea in un angolo del giardino con un determinato procedimento anche piuttosto lungo, ma i sacchi restano su in solaio a seconda del tipo di foglie un anno o a volte due anni in fermentazione anaerobica, cioè in assenza di ossigeno. Questi microrganismi degradano queste foglie, per cui il sacco che in piedi è alto un metro me lo ritrovo alto 30 centimetri, completamente sgonfio. Dentro le foglie già decomposte, le vuoto nelle carriole, le trito grossolanamente un po' con le mani, vedo se magari è entrato un rametto che non è decomposto, lo tolgo, e poi dopo le spargo sopra le mie aiuole di perenni d'inverno, quando non è ancora, sono ancora spuntate le bulbose, quando ho tagliato gli steli secchi e le foglie secche delle perenni. Il tutto a costo zero e in maniera assolutamente naturale. Quindi noi dimentichiamo il nostro sacco con le foglie in cantina, in solaio, in garage, dove vogliamo, e dopo un anno o due lo ritroveremo molto più piccolo, forse di un quarto, di un quinto, e sapremo che è pronto e che lo potremo utilizzare per arricchire il nostro terreno. Per concimare il nostro terreno a volte io una porzione di un quinto, magari per piantare delle piante in vaso, ho fatto delle miscele tipo terriccio da fiori, ma magari non era un terriccio da fiori di buona qualità, una parte di terriccio da fiori, una parte di terra da giardino, una parte di chitrapomice o lapillo e una parte di compost di foglie. Quindi ci ha fatto capire che anche chi ha solo vasi, su balcone o su terrazzi, lo può usare questo compost. Sì, perché mischiato con altri terricci diventa comunque sostanza organica e comunque non fa altro che beneficiare la pianta, perché poi comunque tutto ciò che accumula nella foglia un essere vegetale è quello che ha assorbito dal terreno, per cui azoto, fosforo, potassio e microelementi. Quando lei decompone, vengono riportati nel terreno, attivano la microflora, la microfauna del terreno, per cui viene attivato e la formazione dell'humus, per cui hai una esplosione di vitalità che è quella della fertilizzazione organica, cioè quella naturale, senza utilizzare mai prodotti chimici che, per come vedo la cosa io, se ne può fare anche meno. Poi dopo ognuno segue la propria filosofia, ci mancherebbe altro. Beh, ma io credo che i cittadini che provano adesso a portare un po' di verde in città lo debbano fare in modo sostenibile, altrimenti riportare la natura in città non avrebbe senso. Ma certo, ma certamente, assolutamente. Io tante volte quando ho dei vecchi vasi con del terriccio esaurito, io il terriccio esaurito non sto a buttarlo via, lo riciclo, aggiungo del terriccio nuovo che magari ho acquistato e del compost di foglie. In questo modo io ho sempre un terriccio che è rigenerato e che ha la possibilità di poter ancora fare vivere anche le piante in vaso. E in questo modo vasi o giardini non costano? Volendo, allora il giardinaggio, per come la penso io, è la lobby più democratico che esista, perché tu puoi essere anche una persona in grosse difficoltà economiche, ma il giardinaggio con talee, semi, amore, il giardinaggio non costa niente, insomma può esserci qualcuno che ti regala una piantina, qualcuno che ti regala una talea, qualcuno che ti dona dei semi, se tu le piante le accudisci capendole come esseri viventi, come faresti col tuo animale da compagnia domestico, il tuo cane, il tuo gatto, loro costano niente, perché comunque tu ti puoi produrre il tuo compost per concimarle, puoi comunque con un pezzo di terra avere delle soddisfazioni senza fare dei grossi investimenti, come si è sempre fatto una volta nei giardini poveri di campagna, dove le vecchiette di 50 anni fa si scambiavano semi, pianticelle, dividi una perenne, dai un pezzettino, un germoglio con la radice ad un amico, la moltiplichi e puoi avercela per sempre. Benvengano i vivai, io ho dei vivai con cui ho grande considerazione, che mi possono proporre piante rare, piante particolari, varietà nuove, ci mancherebbe altro. Io ho grande rispetto del loro lavoro, però magari uno in difficoltà, anche con una manciata di semi, uno può avere delle soddisfazioni e avere delle piante. E per quanto concerne le talee, tante volte è solo questione di essere un attimo informati, perché se ti informi bene con un qualche libro e impari la tecnica, si riesce a moltiplicare per talea quasi tutto. Parleremo presto anche di talea al giardino segreto, ancora non l'abbiamo fatto, ma del resto i vegetali regalano talmente tanti spunti che gli argomenti sono infiniti. Si parlava però poco fa di vivai, i vivai che non stanno vivendo, un po' come tutti del resto, un momento facile. Molti si stanno organizzando per le consegne a domicilio, anche di quelle novità che avrebbero voluto presentare nelle varie mostre mercato di primavera, che purtroppo sono state annullate. E anche di questo parleremo forse già domenica prossima al Giardino Segreto. Ma Claudio Baldazzi, lei poco fa parlava delle persone che i semi li regalano. E lei è tra queste, è una magnifica cosa, ma perché lei ha moltissimi semi a sua disposizione, immagino. Ah, guardi, io ho tutti i semi del mio giardino, tutti gli anni tendo sempre a raccoglierli per poi farne dono ad amici o ad appassionati, anche perché tutti gli anni mi viene voglia di seminare, piantare tantissime cose, poi in realtà tante volte non ci riesco. Semi che possono essere di piante annuali, ma a volte anche semi di piante perenni. Per esempio? Ah, ho una vasta collezione di pomè, che sono piante annuali, rampicanti, autoavvolgenti, che fanno queste campanelle di tanti colori, di tante forme, che fioriscono tutta estate fino a metà autunno. Ho una buona collezione di amaranti, di celosia, e poi ho delle perenni, insomma sì, Cardiospermum alicacabum, è una pianta rampicante che fa dei palloncini verdi, Echinops rubdeckiae. E si potrebbe continuare, i nomi non sono facili da captare, ma il giardino di Claudio Baldazzi è visitabile, diciamo così, anche su Facebook. Ricordate l'indirizzo Claudio Giardino Baldazzi, ricordatelo perché è importante per ricevere a casa dei semi in regalo. Avete capito bene? Sì, mi possono contattare tramite Facebook, io gli do l'indirizzo, loro mi possono mandare una busta contenendo dentro un'altra busta con il loro indirizzo e un francobollo. Io inserisco dentro una bustina di semi, un foglietto dove spiego un attimo come e dove vanno seminati, che sarebbe il momento adesso, e poi dopo io la rimbuco e ritorno indietro. È un piacere. Che idea solidale, generosa, davvero da imitare. Senta, ma chi ha solo un balcone di città cosa può ricevere da lei? Allora, per un balcone, io, se uno addossa dei vasi o delle fioriere alla recinzione, può fare avvolgere delle piante annuali rampicanti. Ribadisco, ipomee o cardiospermum. O, se mi è rimasto ancora, anche semi di Nina lobata. Poi dopo, su un balcone, uno può anche seminare della rubdecchia, può seminare delle aquilegie, gli amaranti, le celosie. Raccontiamo della celosia, l'abbiamo citata più volte. La celosia, celosia cristata o anche celosia cristata e anche celosia cilindrica, è una pianta simile all'amaranto che viene alta circa 80 cm, un metro, e che fa tutta una piuma molto colorata, rosa, fucsia, rossa, gialla, che poi resta fiorita da metà estate fino al tardo autunno. Allora, Claudio Giardino Baldazzi, busta con francobollo, indirizzo, io aggiungerei anche l'esposizione che abbiamo, e riceveremo in dono dei semi, un regalo che in questo momento può davvero scaldare il cuore, un dono di Pasqua per chi ascolta il Giardino Segreto. Claudio Baldazzi, grazie infinite per questo, ma anche per i consigli che ci ha regalato. Grazie a lei Roberta, grazie mille, e auguro a tutti buona Pasqua e soprattutto buon gardening, e soprattutto in questo periodo fatevi compagnia con qualche pianta sul terrazzo, sul balcone, sul vostro damanzale, su un pezzo di giardino. Ne avrete grande gratificazione. La civiltà ebbe inizio quando per la prima volta l'uomo scavò la terra e vi gettò un seme. Khalil Gibran. Non si può non essere ottimisti quando si decide di seminare. Facciamolo regalando fioriture a noi stessi e anche alla nostra città, che senz'altro ne ha molto bisogno. È tutto per oggi. Vi foste persi qualcosa, potete riascoltare quando volete cercando il Giardino Segreto nel sito di Radio 24 o anche sulle piattaforme podcast. Grazie per essere stati in giardino con noi anche in questa domenica di Pasqua. Buone feste e buona resistenza da Roberta Pellegatta. Ci sentiamo domenica prossima.